roba. Che cavolo è successo alla sigla? Regia, spegni sta cosa. Spegni sta cosa. Regia, ma non c'è nessuno in regia. Pronto? Ci siete? Ma che cavolo, cos'era quella roba lì, la sigla? Dai, per favore, ripartiamo da zero. Allora, ancora questa cosa. Spegni, devo presentare il telegiornale. Pronto? Hola. Allora, ancora. Spegni. Pronto? Ma mi sei bloccata la manovella, non capisco un cazzo. E signori e signori, il TG Raw. Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del TG Raw. Vi leggiamo i fatti più importanti della giornata, anzi della settimana, così tanto per rovinarvi la cena. Cominciamo da Milano. È stato avvistato un intero branco di elefanti indiani che volavano sul capoluogo lombardo. Molti dei cittadini, rimasti a testa in su per guardare il curioso avvenimento, hanno dichiarato di aver finalmente capito la differenza fra un elefante maschio e un elefante femmina. Il sindaco Letizia Moratti, al microfono del nostro corrispondente, ha esclamato: "Speriamo che non caghino". Salò. Un'onda anomala ha investito l'intera costa ovest del lago di Garda. Per le cause, inizialmente si è ipotizzato ad un terremoto, ma poi hanno scoperto che dall'altra parte del lago si era appena tuffato Giuliano Ferrara. Il giornalista ha dichiarato di voler provare diversi tuffi durante la giornata. È intervenuto Bertolaso, che ha messo in sicurezza l'intero lago. Panico fra gli abitanti di Salò. Stato del Vaticano. Appresa la notizia dell'uscita di un nuovo libro di Dan Brown, l'autore del Codice da Vinci, l'intera curia si è abbandonata al delirio totale. Sono stati avvistati vescovi che correvano ovunque senza trovare l'uscita, perché non sono mai usciti da lì, dallo Stato del Vaticano, e poi perché non ci sono indicazioni, cardinali che pregavano rivolti verso la Mecca, e un prete ha ricevuto le stigmate. Freddo il commento del Papa. Dan Brown è un povero agnello smarrito e poi è più bravo Stephen King. Genova. Giovane precario si è arrampicato sullo storico faro della città e si è dato fuoco per protestare contro la mancanza di lavoro e ammortizzatori sociali. Il capitano di una nave che entrava in quel momento ha detto via radio: "Oh, finalmente hanno aggiustato il faro". Roma. Il ministro Maroni ha chiesto alla polizia postale di oscurare il gruppo Facebook intitolato Uccidiamo Silvio Berlusconi, minacciando denunce a tutti gli appartenenti al gruppo stesso. Il gruppo incriminato ha quindi cambiato nome e oggi è diventato Non Uccidiamo Berlusconi, ma almeno gli graffiamo la macchina. Bologna. Il nuovo segretario del PD è Bersani. I tesserati del PD, non avendo mai visto i dirigenti del loro partito in faccia, pensavano si trattasse del giovane cantante bolognese Samuele e sono corsi allo stadio in attesa di un concerto live. In ogni caso, il ricavato dalle primarie, 6 milioni di euro, verrà devoluto direttamente da Bersani a tutti gli elettori del PD come risarcimento per aver distrutto la sinistra in Italia. Torino. È stato nominato un nuovo cavaliere del lavoro per meriti sul campo industriale. Si tratta di Ronald McDonald's, il simpatico clown della famosa catena di fast food. Al ritiro del premio, il clown ha iniziato a piangere e, sciolto il trucco, hanno tutti scoperto che in realtà è Rocco Buttiglione. I titoli in borsa della multinazionale americana hanno perso il 45% in mezz'ora. Roma. Il presidente della regione Lazio, Antonio Marrazzo, è protagonista di una vicenda di trans e cocaina. Sulla cocaina ha già dichiarato ai magistrati che non si era accorto fosse sul tavolo. Sui trans ha dichiarato che non si era accorto che fossero nel suo letto. Gli avvocati di Marrazzo invocano l'impossibilità di intendere e di volere del loro assistito al momento della caduta. Scusate, di nuovo Roma, ci è arrivato adesso un nuovo sconvolgente particolare sul caso Marrazzo. Dunque, pare che l'ex presidente della regione, effettivamente si è già dimesso, non abbia voluto denunciare i 4 carabinieri che gli avevano intentato un'estorsione perché si erano presentati dicendo: "Ci mandare i 3". Restiamo nella capitale per un'altra notizia politica. Francesco Rutelli ha dichiarato di voler uscire dal PD. Nelle sedi del partito sono già in corso i festeggiamenti a base di Lambrusco e salumi nostrani. Adesso andiamo all'estero, sempre per una notizia politica. Il premier Silvio Berlusconi ha rimandato un consiglio dei ministri in quanto bloccato in Russia dal maltempo. Voci vicine all'entourage del premier ci fanno sapere che il ritardo non è dovuto al maltempo, ma ad un suo monologo che va avanti ormai da 6 giorni consecutivi e che nessuno riesce a fermare. Bene, per adesso è tutto, vi lasciamo alla vostra inutile serata. Grazie per averci ascoltato e a risentirci all'edizione delle 3 di notte. Oh, ma che stai a dire? Quell'ora sta a dormire, ma che è 3 di notte? Sì, lo so, ma infatti non è vero che andiamo in onda alle 3 di notte, era giusto per dire, così loro vanno a letto tranquilli, pensano che noi abbiamo lavorato, hai capito? In realtà, beh, magari alle 2. No, ma che alle 2? Io me ne sto andando a dormire adesso! Vabbè, dai, non fa niente. Vabbè, dai, poi te lo spiego, dai.